microfono che scocca e la sola della vignette finalmente in onda su queste frequenze. Sono donna, non sono santa, non tentarmi, non sono santa, non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Con la partecipazione di Santa Milva Vaceri e il premio Nobel di femminismo e pratica, io voglio gravitare, Darina, tutto qua è piccolo sì, luna, è un po' chissà. Autonavazione, parla per te, esperienze, parla per te, racconti, parla per te, voci, e parla per te, vita miracoli, lavori, sogni di giorni, parla per te, impegni, impicci e capricci. Ho fatto un contatto incuria sul fatto che nessuno potesse fare, effettivamente c'erano delle difficoltà, nel senso che erano soliti prendere degli appalti, che la cooperativa era solita prendere appalti che poi non poteva gestire a livello di personale, quindi c'erano situazioni con, non so, tipo 8 piani da pulire e 5 donne e 5 operaie che dovevano in 2 ore pulire 8 piani di ufficio, per esempio. La situazione all'interno era abbastanza varia, nel senso. Suicidate dopo la cassa integrazione. Silenzio su tutti i giornali. Ieri è stata la vita di Annetta, un'altra ospite della Vitalia. ma quella è la loro vita. Arrivano al barco dopo che parte il mondo. Tanti morti, magari una vita in più, che hanno danzato oceanate. Si riporta e rimane solo con i pensieri, i problemi, la disperazione e qualche volta succede che non ce la fai. In alcuni sospetti si riteneva che il lavoro di Hostess fosse quello di membro di equipaggio nella grande compagnia, fosse uno dei maestri misteri del mondo, soldi, vita brillante, e girava il mondo in lingua, grandi alberghi, inglesi, ristoranti, non c'era tanto un tavolo per gli equipaggi all'Italia. Un lavoro dove ogni piccolo problema diventava un grande problema. Poteva essere un problema prendere un appuntamento da un medico, da un dentista, o semplicemente essere presenti al compleanno del figlio o all'anniversario del matrimonio. O sapere che si è morto il padre o la madre e tra 24 ore di volo da casa. Ma insomma, i piaceri erano ancora tanti rispetto alle difficoltà. Ora le cose sono molto cambiate. Negli ultimi tempi si comincia a parlare di rischi suicidi e purtroppo puntualmente comincia ad arrivare. Chiedere la parte della falsa albergo ed essere soli, con la propria disperazione, a volte diventa insopportabile. Yeah.